cosa che io voglio lasciarvi con questo messaggio è l'orgoglio di quello che siamo. Siamo italiani e io lo voglio gridare per la prima volta, anche se non sono un patriota, ma questo italiano deve essere in tutto il mondo. Siamo i migliori, cari signori, e lo dimostreremo. E noi siamo la sintesi, come Movimento 5 Stelle, dei migliori in Italia. Il lavoro anzitutto. L'occupazione è tornata a crescere, ma questo dato positivo, che pure dà fiducia, l'uscita dalla recessione economica e la ripresa non pongono ancora termine alle difficoltà quotidiane di tante persone e di tante famiglie. Lui ha fatto il suo discorso con 3, 4, 5, 6, 18 telecamere dal Quirinale con una vista mozzafiato. Io me lo faccio col telefonino in mano, ma la vista mozzafiato che c'è su Bormio è più bella. Qui Alta Valtellina, qui Lombardia, soprattutto costo zero per voi, mentre lì chissà quanto costa. L'ennesimo discorso vuoto. E allora, cari ascoltatori, buonasera, buonasera e buon anno dai microfoni aperti di Radio 24, perché questo altro non è che questo spazio dalle 18 fino alle 20, spazio normalmente occupato da Giuseppe Cruciani e Davide Parenzo, che sono in vacanza. Auguri, saluti anche a loro. Buonasera ad Alessio Maurizi, che questa sera per tutta la settimana vi tiene compagnia insieme a Miriam Lucchetti, Matteo Ramelli in redazione e Pietro Lacorte in regia. 800 24 00 24. Il momento più bello di questi tre discorsi di fine anno è quando il momento proloco di Matteo Salvini, che fa la pubblicità di Bormio, bellissima Bormio, più bella di Roma. Momento peggiore, che quest'anno si è aggiunto anche Salvini ai discorsi di fine anno incrociati, quelli di Mattarella naturalmente e quello di Grillo. Momento peggiore sempre Salvini, quando dice il mio discorso di fine anno almeno non costa nulla. Chissà quanto è costato quello di Mattarella. Ma cosa vuoi che sia costato il discorso di Mattarella? Due telecamere messe lì, questa è sicuramente la cosa che è costata di meno di tutto l'anno delle spese pubbliche. Oh, però siamo partiti con Mondello Beach, la follia di Palermo. Non so quanti di voi si sono connessi con qualche smartphone alle notizie nel pomeriggio, perché di oggi pomeriggio un operatore del TG3 ha ripreso a Palermo uno che la sera del 31 andava in giro sparando con una pistola. Botti di fine anno, ma che botti, una vera e propria pistola. Ci sono le immagini, basta andare online, si vedono. Una, come definirla, veramente una follia. Pensa se questo tizio, che tra l'altro è stato anche ripreso e quindi credo che sia rintracciabile, per qualche motivo invece di alzare il braccio verso l'alto gli si abbassava, volutamente o no, e sparava in mezzo alla folla. Allora, se questo deve essere, ha ragione chi vieta i botti, ha ragione la Raggi a Roma, basta botti, facciamola finita. Uno non può uscire di casa che rischia di prendersi un petardo in mezzo ai piedi o addirittura di essere sparato. 800 24 00 24, anche se è passata ormai, chiamate e dite la vostra su questo, naturalmente tenendo conto, tra l'altro, cari ascoltatori, che a furia di vietare, lo so che vietare non piace mai a nessuno, soprattutto all'ultimo dell'anno ci si vuole divertire, si vuole dare libero sfogo anche ad una forma di divertimento come sono i fuochi d'artificio, però ci sono stati quest'anno meno feriti che in passato. Forse alla fine tutti questi divieti a qualcosa servono, cioè se gli italiani non gli entra in testa che sparare è un divertimento ma non bisogna sparare addosso alla gente, allora piuttosto divieti. 800 24 00 24. Ancora sentiamo, cosa so, Grillo? Ancora un po' di Grillo, svolta patriottica di Grillo. Abbiamo passato un anno a prenderci insulti, a prenderci tonnellate di roba immonda, e ci aspetta un anno, il 2017, secondo me, di riscatto, di orgoglio. Dobbiamo essere orgogliosi di essere i migliori, dobbiamo essere orgogliosi che l'italiano è il migliore, che ancora il Made in Italy fa presa in tutto il mondo, che la nostra piccola media impresa è straordinaria. Oh, sembra Renzi, ragazzi, sembra Renzi. Dobbiamo renderci conto che il Made in Italy funziona, che siamo l'Italia, che siamo i migliori. Sembra pari pari Matteo Renzi. Cambiano i tempi, forse il Movimento 5 Stelle si candida a governare l'Italia. Ci vuole realismo, ci vuole anche un po' di ottimismo. Ancora Grillo. Inserire un reddito universale senza condizioni dentro la classe media che non compra più, dentro un reddito dentro chi non ce la fa, un reddito dentro chi non ci arriva, se no questo sistema è collassato. Oh, allora, tra l'altro, reddito di cittadinanza, che è un cavallo di battaglia di Grillo da sempre. C'è una notizia però curiosa, adesso non la trovo, forse non l'ho portata con me, ma in Finlandia sta partendo una sorta di sperimentazione. Allora, circa 2000 persone, però tenete conto che il paese è fatto di non tanti abitanti, verranno estratte a sorte tra i disoccupati, una sorta di lotteria, e si beccheranno un sussidio di disoccupazione, un reddito di cittadinanza, chiamatelo come volete, di 560 euro al mese per 2 anni, estratti a sorte così. Ma non è una lotteria però per scherzare, in realtà, perché è un progetto che la Finlandia vuole sperimentare, è simile a quello che dice Grillo da un certo punto di vista. In questo caso però si vuole sperimentare se dare questo reddito di 560 euro e non toglierlo nel momento in cui per esempio fai un corso di formazione o anche trovi un lavoro, te lo continua a dare per 2 anni per vedere se questa cosa non disincentiva la ricerca del lavoro, perché sapete che in passato invece succedeva che ti do il reddito e tu la smetti di cercare un lavoro. Allora, proprio come dice Grillo, un reddito senza condizioni te lo do, punto e basta. In Finlandia da quest'anno, dall'inizio di quest'anno, parte la sperimentazione. 800 24 0024, ci abbiamo ancora qualche spezzone fra Mattarella, Grillo, Salvini, vai, sentiamo qualcosa. Bisogna lavorare per abbattere da una parte e dall'altra pregiudizi e diffidenze prima che divengano recinti o muri dietro i quali potrebbero nascere emarginazione e risentimenti. Serve accoglienza, serve anche rigore. Chi è in Italia deve rispettare le leggi e la cultura del nostro paese. Strade in diretta. Un saluto a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 1 Milano-Napoli circa 10 km di coda per un incidente tra Chiusi e Orvieto verso Napoli, code per curiosi anche in direzione opposta. Code per traffico intenso sulla stessa 1 tra Chiusi e la variante di Valico verso Milano e tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione Napoli. Sulla 11 Firenze-Pisa code per incidente tra il raccordo di Firenze Nord e Firenze Peretola verso Firenze. Per traffico intenso sull'autostrada del Brennero si procede ancora incolonnati per 8 km tra Carpi e l'allacciamento con la 1 verso Modena. Infine, per traffico intenso al traforo del Monte Bianco è tuttora chiusa l'autostrada 5 Torino-Ostia tra Courmayeur Sud e il traforo verso la Francia. È tutto, ci risentiamo tra mezz'ora. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ascoltatori, buonasera, di nuovo ben ritrovati da Alessio Maurizi, 800 24 0024. Siamo andati a ripescare questa Telephone Call from Istanbul di Tom Waits, una vecchia canzone, perché anche noi andiamo a Istanbul con Marco Barbonaglia, che è in collegamento con noi. Ciao Marco, buonasera. Buonasera Alessia, a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, Marco Barbonaglia, ti abbiamo visto e sentito tutta la giornata su Radio 24 e anche in diretta su Sky TG24 davanti al Reina Club. Sei ancora nei paraggi del club? Sono nei paraggi, sì. Sei ancora lì nei paraggi. È una storia che è incredibile, anche solo il fatto di un locale così grande, così sorvegliato, così addirittura ho letto da qualche parte che il proprietario aveva fatto pattugliare il mare per evitare attacchi dal mare, pensare come è andata a finire. Però Marco, la notizia insomma, di queste ultime ore è la rivendicazione dell'ISIS, dell'attacco, certo, della notte del 31 dicembre. Insomma, sembra acclararsi questa realtà per cui dopo la svolta in politica estera, io semplifico, banalizzo, non sono un esperto, ma insomma di Erdogan che alleato con la Russia ha contribuito a sconfiggere i jihadisti, i qaedisti, l'ISIS ad Aleppo in Siria, adesso la Turchia è veramente un obiettivo dell'ISIS e infatti oggi è arrivata la rivendicazione. Questo è il quadro che anche i giornalisti, la stampa, le televisioni, il web, la gente lì a Istanbul sta cominciando a metabolizzare in queste ore. Prima di tutto, per concludere il quadro che stavi delineando della sicurezza del locale, aggiungo che c'è un posto di polizia estremamente vicino a 200 metri, 100 metri dal Reina oltretutto. Ma e poi, venendo invece alla questione della rivendicazione dell'ISIS, è una rivendicazione molto importante e molto inquietante. È importante perché normalmente l'ISIS ci aveva abituati a non rivendicare gli attentati in Turchia. È la prima volta che l'ISIS rivendica in questo modo, con una rivendicazione chiara, netta, con i toni classici, roboanti, apocalittici. Quindi ha un valore importante, perché a questo tipo di rivendicazioni noi in Europa, ahimè, siamo abituati con gli attentati che ci sono stati a Berlino, a Parigi, quasi automatica arrivava questa rivendicazione. Invece mi stai dicendo che in Turchia, che pure è stata colpita da tantissimi attentati nell'ultimo anno, è una novità questa rivendicazione dell'ISIS. L'ISIS non aveva rivendicato in questo modo, in maniera chiara, netta e inequivocabile, solo come siamo abituati in Europa, non aveva rivendicato neppure attentati che le erano stati attribuiti, anche per esempio penso a quello dell'aeroporto Atatürk del 28 giugno scorso. Quindi questa rivendicazione equivale un po' a una dichiarazione di guerra totale, di guerra aperta con la Turchia. Non a caso nella rivendicazione dicono anche faremo nuovi attentati, invitano a nuovi attentati, la Turchia viene definita serva dei crociati, viene definito paese apostata. Quindi è una rivendicazione con toni tipici, per l'amor di Dio, nulla di nuovo, ma insomma normalmente qua in Turchia non abbiamo visto questo tipo di rivendicazione. Significa che qualcosa è cambiato. È inquietante perché l'ISIS ha molti uomini, molte cellule infiltrate in Turchia e dunque possiamo pensare, anche se naturalmente spero il contrario, ma possiamo pensare che possano moltiplicare gli attentati in futuro. Però tornando invece a quello che dicevamo prima, la sicurezza attorno al locale, al Reina, un locale dove sono andati, io ho letto tantissime persone, c'erano dentro anche persone importanti, è un locale dove si paga ovviamente una follia, non è alla portata di tutti, però questo è, nelle capitali succede. Pensare che possa essere stato così vulnerabile è incredibile o no? Cioè, chi è stato anche a Istanbul ha visto comunque girare forze di sicurezza, non è una città che non sia dove non ci siano presidi di forze dell'ordine, invece è stato più semplice di quanto uno poteva immaginarsi. Istanbul era una città completamente presidiata per il 31 di dicembre, c'erano qualcosa come 17.000, si è parlato di 17.000 uomini della polizia in città, ma la realtà è che è molto difficile controllare tutti i punti sensibili. Innanzitutto in Turchia operano gruppi terroristi che si pongono obiettivi diversi e che hanno modalità di azione diversa, quindi gli obiettivi già sono tanti. Una città, pensiamo, di 20 milioni circa di abitanti, una città enorme, una megalopoli dove gli obiettivi possono essere tantissimi. Certamente col senno di poi poteva essere un obiettivo il Reina, ma moltissimi altri potevano essere obiettivi simili. Dopotutto, se invece di colpire in un club così esclusivo avessero colpito da qualche altra parte, avrebbero ucciso comunque un sacco di persone anche in club, diciamo, meno frequentati dal jet set, ecco. Senti, ma il regime di Erdogan, insomma, un presidente primo ministro dal 2000, me lo sono segnato, dal 2003, poi presidente adesso da due anni presidente della Repubblica Turca, un regime contestato soprattutto in Europa, un regime sempre più autoritario, ci sono giornalisti arrestati, il pugno di ferro con le opposizioni, si parla di una riforma della Costituzione che consenta a Erdogan di rimanere al potere, ma dopo questo ennesimo attentato, con questa rivendicazione dell'ISIS, è immaginabile che si rafforzerà ancora di più il potere, perché quello che succede normalmente quando c'è un attentato che ci si riunisce, ci si compatta anche con chi è al governo, perché si è ricevuta una grossa minaccia, una grossa ferita. È certamente difficile fare questo tipo di previsioni. Da un lato, come dice Erdogan, ha subito invitato all'unità il paese, è un invito che probabilmente è pensabile che venga accolto, perché di fronte a una minaccia così grossa di solito i popoli tendono a coalizzarsi attorno al leader, al di là dei giudizi che si possono dare sul leader, ma è anche vero che potrebbe anche essere un elemento fortemente negativo per il governo, perché un governo che dovrebbe garantire la sicurezza, perché dopo tutte le epurazioni che ci sono state, dopo la minaccia gulenista e tutto, dovrebbe garantire la sicurezza, fatica a garantirla, dopodiché garantire la sicurezza contro una organizzazione come l'ISIS già in Europa, per di più in un paese come la Turchia, è molto difficile. E credo sia purtroppo al momento quasi impossibile evitare questo tipo di attentati del tutto. Stiamo parlando di un paese dove ci sono moltissimi arresti di militanti dell'ISIS, ancora ultimamente, ma prima di Capodanno erano state arrestate decine e decine di persone, perché l'intelligence aveva avuto notizie di possibili attentati, però come vediamo non è bastato a proteggere uno dei moltissimi obiettivi che potevano scegliere di colpire. L'altra cosa che si dice di Erdogan è di questo processo di islamizzazione della Turchia, un processo che in Europa viene visto con timore, perché a fianco al terrorismo di matrice islamica preoccupa anche l'integralismo islamico, e insomma noi da questa parte ci teniamo a difendere i nostri valori della tolleranza, della libertà, e lo sai benissimo, ma la domanda è se Erdogan, che più o meno concretamente propone una Turchia islamizzata, viene a questo punto rafforzato dopo l'attentato dell'ISIS. L'ISIS ha già raggiunto un suo obiettivo, o è un'analisi che invece non si può fare, questo tipo di analisi, secondo te? Ma per quanto Erdogan abbia in sé una componente sicuramente islamica nella sua azione di governo, naturalmente per l'ISIS un governo come quello di Erdogan è un governo, come è stato definito, apostata, secolare, è stato definito, è qualcosa di completamente lontano dalla visione islamica dell'ISIS, per l'appunto. Quello che preoccupa in questo momento sono da una parte il quantitativo di militanti dell'ISIS che possono esserci in Turchia, come dicevo, dall'altro il fatto che qualcuno ha anche collegato, staremo a vedere se è vero oppure no, l'attentato di Capodanno, vedendo la provenienza, perché adesso insomma c'è anche qualche indiscrezione sulla dinamica, insomma si sa qualcosa di più di ieri, anche se non ha valore ufficiale, diciamo. E l'uomo che viene ricercato sarebbe un kirghizo o un uzbeko, questo è stato detto. Qualcuno sta collegando la provenienza di quest'uomo con la cellula di kirghisi e uzbeki e di quell'area, insomma, del Centrasia, che ha colpito all'aeroporto Atatürk. Naturalmente è un collegamento, è un'ipotesi che qualcuno fa, ma è inquietante come ipotesi. Senti, ma tu che ci vivi ormai da quasi due anni, hai scelto di trasferirti lì, sei un collega tra l'altro di Radio 24, perché hai lavorato anche con noi, quindi ci conosciamo da tanto tempo, hai scelto di vivere a Istanbul quasi due anni fa a questo punto, hai visto cambiare questa città? Cioè è immaginabile, torno al discorso dell'involuzione del paese, no? Un ritorno al passato, è immaginabile una Turchia con donne obbligate a mettere il velo, chi professa altre religioni che possa essere discriminato e cose di questo genere? Sì, ho visto la Turchia cambiare moltissimo, non tanto a dire il vero in questo senso, nel senso che io continuo a vedere una Turchia laica che seppure può sembrare meno forte, lo è da un punto di vista politico, è presente sul territorio, perciò il club stesso che è stato attaccato lo dimostra, posti come questi ce ne sono moltissimi ad Istanbul, naturalmente poi la Turchia è un paese grosso, ci sono paesi molto vasto, ci sono molte differenze. Quello che ho visto cambiare tanto sicuramente è la... Io sono arrivato in Turchia appunto 2 anni fa, la Turchia era un paese rispetto ad oggi assolutamente tranquillo, la situazione è degenerata e ultimamente anche con una velocità pazzesca, voglio dire, io sono arrivato in un paese dove il turismo c'era ovunque, anche nel sud-est. Il turismo oggi è crollato, non parliamo nel sud-est asiatico, ma insomma è crollato più o meno ovunque, anche a Istanbul, e quindi c'è una, ma non è crollato soltanto il turismo, insomma c'è una percezione della sicurezza molto molto più bassa, c'è una grande inquietudine nel paese, c'è stato un tentato golpe, ci sono stati attacchi terroristici di ogni tipo. Quindi l'emergenza adesso non è legata, o comunque ai cambiamenti che sta vivendo la società turca, non tanto a questioni legate alla religione quanto naturalmente al tema della sicurezza, e questo è naturale soprattutto adesso a poche ore da quello che è accaduto il 31 dicembre. Grazie Marco Barbonaglia da Istanbul, grazie per questo collegamento, e naturalmente insomma torneremo a cercare di capire che cosa sta accadendo. L'abbiamo fatto così, dando la voce a un cronista che si trova sul posto, per capire anche quali sono le reazioni immediatamente a Istanbul in queste ore. Facciamo un ascoltatore un minuto prima di dare la linea alla borsa. Rolando dalla provincia di Salerno, buonasera, benvenuto. Buonasera e buon anno a tutti quanti. Prego. A me dispiace dover ascoltare Beppe Grillo fare il discorso di Capodanno, e mi dispiace che anche Salvini sia ripetuto insieme a lui, perché per me sarò anche cresciuto in maniera... in una determinata maniera, però a me il discorso del 31 dicembre è con la D maiuscola, è il discorso del Presidente della Repubblica. Sei un tradizionalista, Rolando, per te questa è la cosa, cioè il discorso del Capo dello Stato, bisogna ascoltare quello, insomma. Poi fra l'altro devo dire che Mattarella, che non è che abbia molti estimatori in giro, ne abbiamo trovato uno, complimenti Rolando. No, ma non è il Presidente, cioè non è, sì, Mattarella, è il Presidente della Repubblica. Quando lo è stato così, ho ascoltato tutti i discorsi dei Presidenti della Repubblica. A me dispiace che anche il 31 dicembre Beppe Grillo abbia necessità di dover andare sul sito a fare un discorso ai propri adepti, piuttosto che Salvini agli iscritti della Lega. Cioè, il 31 dicembre è il discorso del Presidente della Repubblica, e mi ricordo che quando ero piccolino, cioè ho 43 anni, comunque c'erano scontri tra sinistra e destra, e comunque, insomma, abbiamo capito, per te è una tradizione questa che non perde smalto, almeno per te. Benissimo, 800 24 00 24, borsa, torniamo tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Parla Carmenina, caro mondo, ragno tonno, quando sono gli occhi tra le spinte, scende in fondo. Carmenina, bella, l'amore, malattia, io me la donai lontanità. Allora, di nuovo una sera da Alessio Maurizio, 800 24 00 24, dice un ascoltatore che ci scrive al 349 238 6666 su WhatsApp. Ma perché se c'era il divieto dei botti, si riferisce quello, il tizio di Palermo della follia che ha sparato in aria con una pistola la notte di Capodanno, quello non sparava, non dica cavolate. Io, può darsi che abbia detto una cavolata, però, caro ascoltatore, che vediamo se ti firmi, ma non ti firmi, così ti citavo il nome, no, non ti firmi, mi pare, almeno non vedo la tua firma, immagina la scena, no, nessun botto di Capodanno, nessuno che spara, niente, e a un certo punto si sentono 4, 5, 6, 7 spari per aria. Tutti si girano e dicono: chi è che ha sparato? Immediatamente il tizio, possiamo dirlo, il coglione, ragazzi, perché quello che va in giro con la pistola e spara in giro così è un coglione, è una brutta parola, però va detta, perché è una follia assoluta. No, si sarebbero girati tutti e l'avrebbero riconosciuto, avrebbero detto: eccolo là. Invece nel casino dei botti non si è accorto di niente nessuno, poteva morire tranquillamente qualcuno. È accaduto questo io dico. Poi i divieti probabilmente non servono a frenare gli idioti, ecco, forse ho trovato una parola migliore. Però 800 24 00 24, vediamo ascoltatori. Cominciamo con Mario da Pistoia, buonasera. Buonasera Prego. Dunque, la mia posizione è molto semplice. Io dico, perché si deve festeggiare un momento bello come la fine dell'anno, come l'inizio dell'anno nuovo, con un rumore di guerra? Perché in fin dei conti i botti sono altro che rumore di guerra. E siccome ci sono anche tante persone che si fanno male con queste cose, giusto proibirle, ma sarebbe giusto che la gente si rendesse conto che è la cosa più sbagliata da fare nel momento in cui si festeggia l'arrivo di un ma poi sai Mario, sbagliata, giusta, ognuno nell'ambito della legalità festeggia come meglio crede, però diventa un problema di tutti quando cerchi di mettere il naso fuori di casa, andare magari al concerto in Piazza Duomo e a metà strada te ne torni a casa perché sei circondato da gente che spara botti, e magari se hai un bambino con te, qualcuno che si prende paura, ma anche se non ha un bambino, insomma, questo non è ammissibile, con la polizia lì di fianco che guarda e non fa niente. Questo accade normalmente in tutte le piazze ormai da alcuni anni anche nelle città dove ci sono le ordinanze di divieto, che comunque, ripeto, cioè, è una cosa che dovrebbe venire da dentro di noi. Si sta tutto l'anno a parlare di pace, si vive, grazie al cielo, si vive in pace noi qui in Italia. E forse è per quello, Mario, siamo talmente in pace che poi una volta all'anno almeno dobbiamo festeggiare in maniera estrosa, per così dire. Io ripeto, non ho niente di male contro i botti, a Milano si sono visti i fuochi d'artificio, erano bellissimi. Il problema è quando la cosa degenera, allora se l'italiano non è in grado di controllarsi o di essere controllato, tanto vale, e questo lo chiedo anche a voi ascoltatori, il divieto, come è successo per esempio a Roma ad opera di un'ordinanza del sindaco Virginia Raggi. Anna Maria da Vicenza, buonasera. Buonasera. Prego. Volevo informarvi, no, che prima sentendo il discorso praticamente da Pepe Grillo del reddito di cittadinanza, no? Sì. Ecco, volevo dire che io faccio parte di un'associazione, diciamo, che si chiama COEM, praticamente siamo dei CLEM, non so se hai mai sentito parlare di mondo migliore. Non ho capito né l'uno né l'altro, un'associazione si chiama COEM? Volevo capire perché non si parla magari di questa cosa che praticamente si sta attuando anche in Italia, praticamente, cioè, stiamo promuovendo anche noi praticamente un reddito di dignità, praticamente un progetto che stiamo attuando. Ma in che senso lo state attuando? Lei parla di un'associazione, tu Anna Maria parli di un'associazione privata, no? In che senso state promuovendo il reddito di dignità? Praticamente come? La QM di Padova è un'associazione non profit, sì, e stiamo facendo un progetto pilota, e in pratica in questo progetto pilota che succede in questo progetto? Sei emozionata Anna Maria. Allora prendi il fiato e semmai richiamaci per spiegarci questo progetto pilota. Intanto noi ci annotiamo che c'è un'associazione che sta sperimentando questo, credo dando degli assegni, delle borse in qualche modo, dei sussidi a qualcuno. Io ricordo agli ascoltatori che siamo partiti, oltre che da Beppe Grillo che è tornato sulla questione del reddito di cittadinanza senza condizioni, dalla notizia che in Finlandia da quest'anno si sperimenta su 2000 persone un reddito, anche in questo caso un sussidio per i disoccupati di 560 euro al mese, che non è condizionato a niente, puoi anche trovarti un lavoro nel frattempo, ma lo Stato continua a dartelo. È un progetto, anche questo pilota, una sperimentazione che si sta facendo per vedere che influenza ha sulle decisioni delle persone il fatto di avere un sussidio, un assegno, un sostegno al reddito, che è un'emergenza, ormai una possibilità che c'è in tutti i paesi, se ne sta parlando in tutti i paesi, perché ormai si è capito che insomma, il lavoro non c'è più, non ce n'è abbastanza occupazione per tutti, e quindi si sta correndo in qualche modo ai ripari, cosa che il Movimento 5 Stelle, va detto, dice da anni abbastanza inascoltato, anche se poi in alcune regioni non amministrate dal 5 Stelle, tipo l'Emilia Romagna per esempio, è partito da poco un mini reddito, però si tratta di un mini reddito per una mini quota di cittadini dell'Emilia Romagna. Enzo dalla provincia di Gianni da Torino. Gianni, buonasera. Eccomi, buonasera, buon anno. Allora, riguardo al discorso dei botti semplicemente, sì. Anche perché quest'anno me ne è esploso proprio uno davanti al balcone, io abito al sesto piano, sì. E hanno cominciato a tirare appunto davanti, da noi abbiamo una spianata con prati eccetera, invece di proprio si è fatto che mettersi nel cortile, e sono esplosi e varie schegge sono arrivate sul balcone. La fortuna è stata una sola, che quest'anno io non stavo bene e non sono uscito sul balcone come sempre, se no mi ritrovavo magari nell'ospedale. Che aveva la febbre? Eh sì, aveva mal di gola, eccetera, sì. Quindi... anche mio figlio in genere lo portava. Ma non ho capito che è successo. Niente, hanno cominciato a tirare i soliti razzi che ci sono, no? Però un conto se li tirano in una piazza o in un prato. Anche a me, insomma, se vogliono far fuochi d'artificio, facciano pure. Invece li hanno messi molto vicini a casa e quindi me li sono trovati, mi sono esplosi praticamente sì, a perché mezzo poi metro bisogna dire la verità, il gusto vero di chi fa questo, questo tipo di cose, molti di quelli che lo fanno, non è tanto di sparare o di vedere fuochi d'artificio, ma è di tirarli addosso a qualcun altro per spaventare. Questo è, questa è la cosa veramente stupida di tutto ciò. E quindi, caro Gianni, è capitato anche a lei. Fortuna che era al riparo dentro casa. Sì. No, infatti, quest'anno mi è andata... Io tutti gli anni esco sul balcone, tutto, portavo anche mio figlio che in carrozzina a vedere i fuochi, eccetera. Perché di per sé, uno, quando è uno spettacolo, la cosa... Se lo fanno per mezz'ora, non succede niente. Il problema è quando vanno avanti per giorni, comprando e spendendo cifre assurde, giusto, in botti, petardi. Tanto si spende, tra l'altro si spende un sacco. Grazie Gianni, buona serata. Grazie. Davide da Milano, prego, buonasera. Buon anno. Io volevo portare una testimonianza sui botti, perché sono stato a Vienna ed è stato splendido, perché erano completamente proibiti nella zona centrale e quindi è stata una serata stupenda di allegria, di divertimento e di relax completo, quindi volevo dire questo. Però se posso fare una piccola riflessione, ascoltando anche il reportage prima da Istanbul, mi domandavo, era proprio necessario che il Pentagono la mattina del 31 annunciasse che al-Baghdadi è vivo e lotta, non dico insieme a noi, ma insomma è vivo e lotta ed è al controllo dell'ISIS? Era proprio necessario che a poche ore dall'accordo, no, per la pace, perché c'è stato il fuoco in Siria, proprio quel giorno venisse questo annuncio. Ma perché proprio quel giorno? Che cosa c'aveva? Sicuramente se c'era una cellula dormiente ha pensato bene quel giorno di muoversi. No, ma se avessero detto che era fuori gioco, poteva essere un pretesto per dire è stato ucciso, siccome era stato sostituito da un altro portavoce. E invece in questo caso è stato detto questo. Però Davide, ogni pretesto credo per il terrorismo è valido. Dopodiché il 31 dicembre era un'occasione che, ahimè, faceva gola a questi terroristi. Enzo dalla provincia di Ancona, buonasera. Enzo. Sì, buonasera, eccomi qua. Adesso prego. Mi fermo, se no non senti niente. Sì. Buonasera. Allora, volevo parlare qualcosa sul reddito di cittadinanza, ma nel frattempo auguri all'Italia se le persone a 43 anni, quindi non a 80 anni, vogliono sentire l'ultimo dell'anno solo il Presidente della Repubblica che parla. Io penso che abbiano diritto di parlare tutti, sì. Poi se uno vuole lo ascolta. Ma guarda, l'intervento di Rolando credo che fosse era... No, ma io ho capito. Sì, non voleva dire che Grillo non doveva parlare, voleva dire che lui c'ha un rispetto per le istituzioni, per cui il discorso di fine anno per lui è una cosa che ha valore istituzionale, vale per tutti, quindi è una cosa su cui non bisognerebbe dividersi. Però capisco che sia un punto di vista che magari altri non accettano assolutamente, Enzo, e quindi... O Salvini, se no non lo sente. Parentesi, reddito di cittadinanza, sì. Ok. Dice poi uno il lavoro non lo cerca. Secondo me il lavoro non va solo cercato, perché se va io trovato sono... soprattutto. Ma soprattutto mi deve essere data la possibilità di avere contatti con chi ha necessità di posti di lavoro. Io non posso, perché sono figlio di un avvocato, di un imprenditore, di un qualcuno che conosce, avere 100 possibilità di chiedere lavoro, mentre se sono figlio di un operaio che va a casa la sera alle 6. Però Enzo, scusa se ti interrompo, ma cosa c'entra questo con il reddito, il sussidio per i disoccupati o un reddito di cittadinanza? Lavoro, una volta che ho il reddito di cittadinanza, sono inserito in una lista di una categoria, in una lista di nominativi degli uffici statali o regionali del lavoro che ci sono, ma non si sa bene cosa fanno. Devono dire: caro signore, c'è la ditta X che chiede un posto va di bene, lavoro. Enzo, questo però auguri intanto e saluti. Questo però è un discorso che vale in generale e non ho capito che ci azzeccava in particolare col sussidio di disoccupazione. Se qualche ascoltatore l'ha capito, 800 24 0024. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró. Allora, amici tassisti d'ascolto, non vi arrabbiate, ma questa è la cosa. Allora, è successo ancora a Roma la notte di Capodanno per il tratto da Via Nazionale a San Lorenzo. Alcuni tassisti la notte di Capodanno, anziché chiedere il normale tassametro, la normale tariffa che si aggira intorno credo a meno 10 euro, hanno chiesto la tariffa fissa che è il doppio, 20 euro. Naturalmente i taxi a quell'ora erano pochi in circolazione, la gente ha pagato, ma non va bene questa cosa qua. Allora, forse non è accaduto solo a Roma, forse sono pochi che hanno provato a fare i furbi e ci sono anche riusciti. Fatto sta che ogni volta che, insomma, è una dimostrazione che il servizio non è completo, non funziona al 100%, si può migliorare il servizio taxi, è l'ennesima dimostrazione. Però quando se ne parla, naturalmente, amici tassisti all'ascolto, di concorrenza o di cambiare il servizio, non neanche a sentirne parlare. Allora, è con noi Nicola Di Giacobbe del sindacato Unica CGL Taxi. Buonasera e benvenuto. Buonasera e buon anno. Eccolo qua, buon bello squillante, quindi bello battagliero. Allora, ci dica un po', intanto ho visto che lei ha già rilasciato una dichiarazione che, diciamo, ha ammesso che questa cosa è un po' è accaduta. Esattamente che cosa è successo? Intanto, ammettere che ci siano stati delle situazioni come quelle che ha pubblicato Repubblica, sì, sono deprecabili, se ci sono state vanno condannate, non è quello il servizio taxi. No, però, non si può neanche liquidare poi così facilmente, no, perché no, questo quando piove, quando ci sono le fiere, quando c'è tanta adesso, richiesta. Adesso lei generalizza, vediamo il problema però. No, no, ma non è che generalizzo, allora, è la realtà. A Roma poi si sa che, ma anche a Milano, c'è meno offerta di taxi, quindi furbo può fare il furbo più facilmente, perché sa, se ci sono 20 taxi, uno mi chiede il doppio, io vado da un altro, se non ce n'è nessuno. Quello che le chiede il doppio è un truffatore, non è un tassista. Quello che non va a tassametro e non rispetta i parametri del tassametro è un truffatore e non è un tassista. Quel tassista però è un tassista truffatore, mettiamola così. Sono taxi con la licenza e tutto. È al pari di quel commerciante o di quell'esercente o di quel soggetto che offre della merce facendola pagare più di quanto questa merce effettivamente vale. Giusto. Punto su questo, ci mancherebbe altro. Deprechiamo e condanniamo abusi sotto qualsiasi punto di vista. Adesso però mi faccia dire una cosa, perché state parlando di Roma. Parlando di una città che la sera del 31 l'unico soggetto, gli unici che hanno garantito la mobilità nella capitale erano i tassisti. Perché non c'erano autobus dopo una certa ora. Erano fermi. A che ora, scusi? Dalle ore 21 in poi a Roma non circolavano più mezzi. Cioè, io questo non lo sapevo. Scusi un attimo. Ma aspetti. No, aspetti, che mica ho finito. No, ok, adesso 23... prosegue l'elenco. Però questo mi sembra un punto per i non romani interessante. Cioè, dalle 9 di sera in poi a Roma il 31 non c'erano autobus. E non solo, ma il servizio metro durava fino alle ore 2:30 e, tra l'altro, l'inadeguata programmazione da parte dell'amministrazione comunale degli eventi, perché qui non si parla di... Sì, però non allarghiamo troppo il discorso, perché anche il fatto degli autobus, per esempio in Cina, a Pechino, hanno sospeso gli autobus per via dello smog. Ora, io non conoscevo questa cosa di Roma, c'era la metropolitana, però voi siete un servizio, quindi un presidio. Io non sto dicendo che il servizio taxi fa schifo, assolutamente no, no, sia chiaro, non dico questo. Dico però una cosa: le metropolitane si fermano i mezzi, non dimentichiamoci che il servizio taxi è un servizio pubblico collaterale al servizio però di linea. Se si ferma il servizio di linea, che un autobus porta 50 posti, un taxi porta una persona, non si può pretendere che il taxi possa sostituire. Va benissimo, tutto quello che vuole Giacobbe. Il punto che io dico è questo: il servizio taxi, che è fatto tra l'altro da tanti tassisti che sono persone che lavorano oneste, esatto, simpatiche, ti tengono compagnia, ti raccontano la storia delle città, eccetera, eccetera. Però quando ci si rende conto, come in questi casi, che in alcune circostanze, quando ci sono soprattutto i picchi di traffico, in occasione picchi di richiesta soprattutto dei taxi, in occasione o del Capodanno, vuoi perché non ci sono i mezzi pubblici, o quando a Milano ci sono le fiere, però ecco, ma perché non c'è mai una disponibilità da parte vostra a migliorare anche con forme di concorrenza maggiore il servizio taxi? Questo è il punto. Tanto è vero che nella notte di Capodanno abbiamo messo a disposizione tutti i taxi che in quella notte erano in servizio, più gli altri che volevano garantire il servizio. Dopodiché dividiamo in due le cose, però. Una cosa è impensabile che i taxi possano sostituire il servizio di linea, perché altrimenti non avremmo nemmeno sufficienza strade per poter far camminare tanti taxi quanto autobus. Quindi, primo problema. No, sostituire no, però lei sa benissimo che anche quando gli autobus ci sono e c'è più richiesta, se il servizio fosse organizzato diversamente o ci fosse un'offerta un pochino più flessibile, tante volte a Roma non sarebbe un disastro chiedere un taxi, ma sarebbe più semplice. Loro e non potevano essere sufficienti. Il problema non è quello, tra l'altro, e anche qui consideri che nella notte di Capodanno a Roma c'è stata un'invasione di auto bianche, che sono quelle auto bianche con scritto taxi, che magari non erano del comune di Roma ma erano di altri comuni, e quindi senza nessun controllo. Lo stesso vale per gli NCC, che aiutato anche da queste app e da queste nuove applicazioni tipo Uber, MyTaxi e quant'altro, sì, permettono di poter entrare liberamente nelle aree più sensibili di Roma, quindi questa è anche una questione di sicurezza, senza nessun controllo. Io voglio sapere per esempio quanti tassisti sono stati fermati dalle forze dell'ordine o dai vigili urbani per alterazione di tariffa. Vale la cifra? Nemmeno uno. Però io le faccio io una domanda a questo punto, perché va tutto bene quello che lei dice, naturalmente ammette che ci sono dei tassisti, dei truffatori, delle mele marce che hanno fatto i furbi, difende il servizio e questo è anche giusto. Però io le dico, lei dice ci vogliono i controlli, i vigili che facciano i controlli, che fermino i furbi, giustissimo, su questo ha ragione in pieno. Però perché voi, e le do qualche suggerimento invece, non organizzate per esempio quando piove dei servizi aggiuntivi, oppure voi stessi non censurate, facendo una ricerca interna, chi sono i furbi che hanno chiesto le tariffe fisse la notte del 31 a Roma e vi impegnate affinché gli venga tolta la licenza, cioè cambiate atteggiamento anche voi, fate che ne so degli sconti per le anziane che vanno a fare la spesa, vi inventate qualcosa per migliorarlo questo servizio, voi non aspettare che siano i vigili a fare le multe, ma voi, perché così la difesa del servizio diventa più credibile da parte vostra. Difendendo coloro che non agiscono secondo. Se un tassista rifiuta una corsa a un handicappato, non è che bisogna inventarlo, c'è il ritiro della licenza. No, ho capito, ma perché non fate anche voi un po' di controllo? Invece di aspettare. Abbi pazienza, ma se io le dico che da regolamento comunale, da le leggi che vigono in questo settore, se un tassista rifiuta una corsa a un handicappato, c'è il ritiro della licenza. Se un tassista viene sorpreso per due volte. Sì, però Di Giacobbe l'ha detto lei che questi controlli non si fanno, i vigili non li fanno, è il regolamento, però se è un regolamento applicate tra di voi un codice deontologico, fate come vi pare, organizzatevi in modo da far vedere ai cittadini che siete voi i primi a verificare, a tenere sotto controllo i furbi, quelli che fanno i furbi, quelli che la notte del 31 ti chiedono il doppio per un tratto di pochi chilometri. Fatelo voi direttamente, provateci, almeno dimostrerete la buona volontà e allora tutto sarà più credibile. Io questo glielo do come consiglio, poi fate come vi pare. Io credo che sia possibile provare a individuare chi sono quelli che hanno fatto i furbi e togliergli la licenza. Voi, farlo voi. Certo. No, ma questo è, tanto è vero che se uno di questi signori viene denunciato, se fa parte di una centrale radio che fa riferimento alla legge 21, quindi le centrali radio dei tassisti, mi viene sospeso il servizio subito, perché anche nelle centrali radio c'è un codice deontologico per cui chi sbaglia paga e viene sospeso dal servizio. Dopodiché, alterazione di tariffa o rifiuto di corsa sono le cose per cui uno può perdere la licenza. Io dico, la va benissimo, è... però metteteci del vostro. Secondo me potete farlo e potete dare una mano. E allora metteteci del vostro anche voi, perché per esempio... Sì. Si sta creando confusione in tutto questo emisfero. Adesso è colpa dei giornalisti. Le piattaforme come Uber e MyTaxi che offrono dei servizi ai taxi facendoli diventare noleggi. E ai noleggi facendoli diventare taxi. Però anche in questo caso ci sono delle leggi e ci sono dei controlli da fare. Lei ha ragione. In alcune città sono stati sospesi certi servizi, in altre no. È un po' una giungla, si vedrà. Però io ripeto, deve venire anche da voi, secondo me, un moto di onestà e di togliere dalla categoria queste che sono delle menemacce che però puntualmente si ripropongono. Io credo che diventerebbe tutto più tollerabile, Giacobbe. Intanto grazie per essere stato con noi e buon anno ancora al sindacalista di Unica CGIL Taxi. Un minuto per chiudere con Francesco da Venezia prima di andare al giornale radio. Vai Francesco. Eccoci qua, buonasera. Eccolo. Non sono molto d'accordo sulla praticabilità del divieto posti in Capodanno. È totalmente realizzabile. Pensi da Roma al sud Italia, povere profili di carabinieri con l'elmetto in testa che devono andare a identificare persone che sparano. Senti, ti sentiamo male. Francesco, proviamo a farti intervenire dopo perché si sente male e andiamo da Mariella che chiama da Siracusa. Vai Mariella. Buonasera. Buonasera. Allora, io chiamavo a proposito dei fuochi di artificio, dei botti. Sì. Io sono proprietaria di un pastore tedesco, anzi ne ho due, ma la femmina in particolare in questi giorni è terrorizzata, non vuole più uscire di casa. Perché? Perché per loro, ma anche per noi, devo dire. Perché diciamo anche per noi, perché mica solo per i cani. Per gli animali. No, voglio dirle, io le dico perché se un pastore tedesco non esce più da casa perché ha paura, ti immagini i ragazzini, i bambini... Sì. A parte ma dire, paura di cosa? Non dei fuochi d'artificio, però io penso dei botti, quelli paura dei botti, no, dei fuochi d'artificio no, perché alla fine proprio i botti, quelli sì, che sì. Purtroppo anche del pomeriggio, ragazzini facendosi peraltro spesso male, mi auguro che i genitori li sfuggano dal controllo, perché sennò sarebbero doppiamente responsabili. Ognuno insomma, poi vedi, mia Mariella, ognuno poi è affezionato a quello che ha. Lei ha due pastori tedeschi, è affezionata naturalmente a loro. Io parlo del cane, certo, perché chiaramente lei ha due cani. Quasi, io potrei parlare dei bambini, ho due figlie, quindi potrei parlare anche delle persone normalmente, ripeto, non si può andare in giro il 31 sera perché ti sparano addosso e questo non è possibile, punto, c'è poco da dire. Dopodiché la follia, quella di Palermo, è tutta un'altra storia. Io spero che qualcuno cercherà di rintracciare questo personaggio che si aggirava con una pistola sparando in cielo. 800 24 0024 giornale radio, torniamo subito dopo. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Bologna-Venezia, viaggetto romantico, io, lei e il sistema Digital Radio. Sentiamo la radio? Certo, ma ascoltiamola in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto grazie all'autoradio digitale. Niente effetto salto, nemmeno se ti sposti per chilometri, perché il sistema Digital Radio non ti lascia mai. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio, il suono perfetto, DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Hey petit bébé, il faudra se taire. Ouais, même si papa frappe ta mère, ben il faudra s'y faire. Je sais qu'il fait mal, même quand il s'en va. Mais c'est tout à fait normal, car papa a les plus gros bras. Et si monsieur louche sur toi, il faudra se taire pendant et après que monsieur te touchera. Chut, chut, il faudra se taire. C'est dur, ouais, mais il faudra s'y faire. Dodo, l'enfant, dodo, bébé dormira bien vite. Dodo, l'enfant, dodo, bébé dormira. Dodo, l'enfant, dodo, bébé dormira bien vite. Di nuovo buonasera a tutti, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 800 24 00 24 con Stromae, Dodo, una canzoncina di questo celebre autore francese di qualche anno fa che parla del momento dell'addormentamento del bambino. Perché? La notizia è questa qua, tenetevi forti, sculacciate ai bambini, addio, almeno in Francia è stata vietata con una legge la pratica della sculacciata, però la Francia è solo l'ultimo paese di una lista di posti nei quali è proibito dare una sculacciata ai propri bambini. E noi che pensavamo che dare un paio di totò sul culetto non fosse una cosa grave, forse lo pensavamo perché stiamo in Italia, che è un paese non abolizionista, cioè nel senso in Italia non è stato abolito il reato, la sculacciata, non c'è il reato di sculacciata, non so se mi sono spiegato, ma in Italia si può ancora sculacciare senza commettere un reato, in Francia invece no. E allora intanto ne parliamo con un esperto, il professor Gustavo Pietro Polli Charmé, buonasera. Buonasera. Che è psichiatra, psicoterapeuta e soprattutto presidente dell'associazione CAF Onlus, il centro aiuto minori e famiglie. Quindi è sbagliato, è anche grave da un certo punto di vista, lei che è un esperto più seriamente di maltrattamenti ai bambini, però sculacciare i bambini, professore? Ma è quello che è stato deciso silenziosamente dalla maggior parte dei genitori, degli educatori, dei docenti, che fino a qualche anno fa ritenevano che fosse un dovere degli adulti essere severi. Addirittura un dovere, giusto, perché questa cosa dell'essere severi era ritenuto un dovere educativo. Sì. Poi adesso ne parleremo, magari si apre anche una questione su cosa sia oggi essere genitori e se questo dovere essere un po' severi ogni tanto non sia importante, magari senza alzare le mani, però non sia importante. L'ho interrotta, stava dicendo che è una cosa, la sculacciata, che via via è andata progressivamente abbandonata. Cioè, silenziosamente, a seguito naturalmente di cambiamenti importanti, famiglie a figlio unico, bambini quindi molto pregiati, perché se sono rari ovviamente sono anche pregiati. A lei ne fa una questione di rarità, cioè sono rari, ce n'ho uno solo. Siamo il paese e quindi lo tratto meno bambini al mondo. Eh beh, certo, quando le famiglie come quella da cui provengo io erano fatte 5-6 fratelli, insomma bisognava mettere ordine, far rispettare le regole, la disciplina, e bisognava anche in tempi rapidi eseguire il compito di sottomettere alla regola i bambini. Questo era un dovere molto sentito dagli adulti, no? Che probabilmente in certi casi si facevano anche forza e picchiavano il figlio con rammarico, con dispiacere, ma ritenendo che fosse il loro dovere, no? Ma era sbagliato, professore, era sbagliato questo concetto? Sì, è quello che praticamente nel nostro paese si ritiene che sia sbagliato, cioè che la quantità di dolore che si può somministrare a un bambino a scopo educativo deve tendere a zero, e che non è una cosa buona da un punto di vista educativo farsi obbedire per paura dei castighi e delle sanzioni. La cosa buona è farsi obbedire per amore, per stima, per affetto, per la presenza, per la qualità di relazione. Quindi è già in vigore. Sì, prego. No, è una regola che è già in vigore nella maggior parte delle famiglie, nelle scuole, nei centri per bambini, nelle comunità. Quindi lei dice anche senza che ci sia una legge, questa è una regola che è già in vigore. Però le chiedo, come si fa, perché spesso scatta la sculacciata o la manata? Perché magari il bambino va cacciandosi nei guai, perché questo è il punto, no? Il bambino che mette le dita nella presa, l'esempio classico. Come si fa amorevolmente a evitare di tirarlo in qua e magari fargli capire il concetto anche con una manata, cosa che appunto fino a poco tempo fa abbiamo pensato potesse essere alla portata di tutti e non avere effetti così negativi su un bambino. Invece sì, gli effetti sono negativi. Come facciamo però amorevolmente a far cambiare idea al bambino? È quello che stanno cercando di fare le mamme, cioè di farglielo capire, no? Che quello è il limite, non bisogna mettere le ditine nella presa, a parte che adesso salvavita eccetera eccetera non è più pericoloso come una volta, ma comunque insomma l'idea educativa è che non bisogna imporsi con la forza, bisogna convincere, bisogna aiutare il bambino a sviluppare un sentimento di responsabilità, per cui effettivamente i bambini vanno verso la presa, si voltano verso la mamma e fanno col ditino cenno di no, come dire, non si deve, vero mamma, ecco, hai visto che ho capito, e quindi vince la cultura del dialogo, non della forza. Quando va tutto bene, quando va tutto bene, professore, sì. Io ho due bambine, una di un anno e una di 5 anni e mezzo, ecco. Confermo che va così. Quando non è così, magari il genitore ha un po' meno pazienza, un po' meno tempo, un po' meno energie mentali per poterlo fare, ahimè, può succedere anche che uno alzi la mano. Può succedere ed è, come dire, quello che succede nell'area dei delitti anche più gravi. Uno perde la testa, no? È dominato dalle passioni, ma in questo caso viene buona una legge, no? Che dica no, non puoi. C'è un genitore che è tirato allo stremo, ha adottato duramente tutto il pomeriggio, la notte per addormentarlo, esatto. E ancora lui pretende, esige lucine accese, porte socchiuse, un riordino particolare dei giochi e poi ancora raccontare una fiaba, eccetera, eccetera. A quel punto basta, no? E chiaramente viene voglia di tappargli la bocca. Quindi insomma, se c'è una legge che dice no, non si può, vai avanti, insisti, cerca di fargli capire l'importanza che ha il riposo notturno per tutta la famiglia, eccetera, eccetera. Allora, in questo caso è bene che ci sia un limite che pone, come dire, proprio un argine all'eventualità che faccia irruzione nella relazione con i piccoli la violenza, no? Comunque sì. Camuffata, perché dice, non c'è. Ci sono mamme non ci deve essere mai questa violenza nei confronti dei bambini. Però professore, c'è, io credo ancora comunque una mentalità che non è una mentalità violenta, ma è una mentalità di chi dice in fondo la severità è giusta, perché per educare il bambino ci vuole un po' di severità, il bambino ha bisogno di limiti, deve capire che di là non si passa, e si fanno esempi quando in passato in ginocchio sui ceci dietro la lavagna, oppure anche qualche cinghiata magari non esageratamente violenta, che però hanno prodotto risultati positivi. C'è questa specie di esaltazione di questa educazione un po' severa. Se togliamo di mezzo il fatto giusto di non esercitare violenza nei confronti dei bambini, cosa resta di questa autorevolezza dei genitori anche in forma di severità? No, ha ragione. È chiaro che la paura è quella, no? Che i bambini diventano spavaldi, strafottenti, non riconoscono il limite, non che è un studio, po' quello che ci sembra ogni tanto di vedere in circolazione, no? Magari uno non nella sua famiglia, guardando gli altri, però sembra di vedere questo predominio in qualche modo dei bambini, questa esagerata importanza, questa libertà assoluta che spesso però sembra controproducente. Non c'è dubbio che il nuovo modello educativo ha fatto sì che i bambini non abbiano più paura degli adulti, no? Li vogliono bene, sono legati, obbediscono forse per non fare dispiacere ai genitori, ma certamente non per paura. Non hanno paura della scuola, non hanno paura della famiglia, e quindi è giusto che ad alcuni adulti sembra di aver perso il controllo della situazione e che possono pensare che usando la forza si possa riacquistare l'autorevolezza. Però questo non bisogna mai farlo. La forza, lei dice, giustamente, assolutamente non serve, mai. Non serve. È dimostrato che un bambino che è picchiato diventerà un uomo violento, anche una bambina. Però alzare, quindi, che so, il tono della voce, per esempio, per far capire che una cosa non si deve fare, oppure magari minacciare un comportamento più severo senza farlo. Questo si può concedere? Ma certo, il proprio dispiacere viene ingigantito agli occhi del bambino. Guarda cosa hai combinato, stavamo così bene, eravamo così pacifici, adesso basta, io non ti voglio più, eccetera. No? Quindi minacce affettive, relazionali, ma non minacce di sanzioni fisiche, perché in realtà queste non esistono, non vengono applicate, e quindi è inutile minacciarle. Quando ero piccolo, mio padre diceva, se continui così ti metto in collegio, ma non era una minaccia tanto per dire, perché i collegi esistevano veramente, veramente, ogni tanto mi spariva qualche amico, no? Che andava in collegio effettivamente. Andava in collegio, e quindi non era una cosa, se effettivamente si era bocciati, non si studiava, si combinava una marachella più grave delle altre, una delle probabilità era quella di andare in collegio. Quindi possiamo concludere temporaneamente, diciamo così, momentaneamente, che commentando questa notizia del fatto che appunto anche in Francia è stata votata una legge per cui sculacciare i bambini è un reato, che non bisogna mai esercitare violenza nei confronti dei bambini, minimo possibile, mai. Minacciare però può essere un compromesso, cioè minacciare una forma di intervento più pesante. Questo rimane al genitore come strumento educativo, questo si può dire. Vengono minacciati fiosi castighi, guarda che non esci, guarda che non puoi andare a fare allenamento di calcio, guarda che ti chiudo in camera, guarda che perdi gli amici, eccetera, eccetera. Cioè tutta una serie di castighi che non sono fisici, no? Sono affettivi, relazionali, e possono essere straordinariamente utili, perché rispetto alla gravità dell'infrazione è giusto che i genitori somministrino dei castighi che sono graduati. Per piccole cose ci sorvoliamo, ma su cose importanti no, bisogna che sia celebrata l'arte del castigo. Assolutamente. Le voglio chiedere un'ultima cosa in chiusura, ma lei che ha a che fare in quanto appunto con questa ONLUS, CAF, Centro Aiuto ai Minori e Famiglie, da anni coi minori che subiscono maltrattamenti seri in tante situazioni, spesso anche in famiglia, è possibile che dallo schiaffo, dallo sculaccione, magari una volta o due volte, piano piano i genitori prendano confidenza, o i parenti, le persone che hanno a che fare con i bambini, gli educatori, e diventino realmente violenti al di là del singolo episodio? Cioè è possibile che la sculacciata sia solo l'inizio di un percorso violento? Le è capitato di scoprire questo? Sì, sì, certo, se il contesto non lo, come dire, non è dissuasivo rispetto a queste eventualità, se non sostiene la mamma che in quel momento può avere una crisi depressiva, può essere in una crisi coniugale col marito, può aver perso il lavoro, eccetera, eccetera, quindi può avere i nervi a fior di pelle, se si comincia a picchiare il bambino può non finire più, può diventare il canale di comunicazione privilegiato quando il bambino non tace, non eseguisce gli ordini, non fa i compiti, non sta buono, eccetera, eccetera. Quindi è bene che ci sia una norma condivisa. Quindi no? Non si scherza, può sembrare, esatto, può sembrare non magari può. Uno scherzo, o può sembrare una cosa leggera, però ce lo sta dicendo lei, sculacciare comunque, e alzare le mani può quindi aprire anche un circolo vizioso poi di maltrattamenti più seri. Quindi al di là degli scherzi e delle battute anche che si possono fare su questo, assolutamente non bisogna mai farlo. Grazie professore per essere stato con noi, Pietro Polli Charmé, buona serata, auguri, buon anno naturalmente. Allora, un ascoltatore prima di andare alla borsa, Marco da Roma, buonasera Marco. Sì, ciao a tutti, buonasera, buonasera dottore, buonasera a tutti. Io sentavo un ascolto della telefonata, sì. E dovevo dire e intervenire sui botti, sentendo la telefonata, io che ci sono cresciuto in collegio, mi veniva da ridere mentre ascoltavo questa telefonata. Comunque, perché Marco? Perché appunto io ci sono cresciuto in collegio perché ho perso i genitori, quindi sì. Sentendo questo educatore illustre che minacciava il collegio, per te è stata una esperienza reale. Esatto, e io quando avevo mia mamma c'erano i vicini, comunque sì. C'erano le persone più anziane che abituate appunto a questa minaccia del collegio mi dicevano: guarda, di mamma ce n'è una sola, ti mandano in collegio, di mamma ce n'è una sola. E poi nel 76 se n'è andato per un malaccio e quindi in collegio ci sono andato. A furia di dirlo è accaduto veramente. A furia di dirlo è accaduto, pensa che battute delle storie della vita. Comunque, tanto per dire che poi il collegio non è tutta una, è tutta un'altra storia, è tutto un altro crescere, perché cresci con due coetanei e da lì si cresce un po', per quanto mi riguarda bene, per quanto riguarda altri magari un po' meno bene. Vabbè, meno male Marco, meglio così. Il tuo intervento era legato a questo, volevi dire qualcos'altro? Volevo dire un attimo per velocemente sui vari botti di Capodanno, che c'è stata questa grossa polemica e divieti. Vorrei invitare appunto qualcuno qui della provincia, in provincia di Latina, tra Formia, Itri e nei paesi circostanti l'area campana, a vedere le feste del Santo Patrono, che sembra un vero bombardamento ad alti livelli decibel che fanno paura non solo agli animali, che poi toccare gli animali è più grave che toccare i bambini, ma quindi penso che deve essere proprio da parte del costruttore, per non perdere questo lavoro, l'abbassamento dei decibel di questi botti, perché effettivamente è troppo. Cioè dici che sono proprio costruiti per fare troppo, se no che botti sarebbero? Questo bisogna luci, perché cambiamo teoria, luci, io che l'ho vista, ci sono stato in guerra e le ho sentite le botte da vicino, danno parecchio fastidio. Sei stato anche in guerra, Marco? Dove sei stato in guerra? Un po' di tempo fa, quando c'è stata quella che, se non so se la ricorda qualcuno, Desert Storm, stavamo lì. Quindi e lì c'erano, e comunque chiunque ha frequentato poligoni e aree militari ha sentito che quando parte una raffica è abbastanza detonante, quindi trovarci che gente che festeggia il santo patrono di Formia in quel modo, San Giovanni, a te che effetto ti fa? A te che sei stato in guerra veramente, che effetto ti fa? Una cosa stupida. A me dà fastidio, certo. Dà un effetto e mi si riaccendono un attimo dei piccoli file che ho dimenticato laggiù. Sì, ma anche chi giustamente, grazie Marco, intanto buona serata, anche chi non è stato in guerra, come la maggior parte di noi, però qualcosa di negativo si accende, perché quando sono eccessivamente forti danno evidentemente fastidio a tutti, non si capisce come sia tollerabile una cosa del genere. Va bene, 800 24 00 24, la finirò di fare la mia morale sui botti di Capodanno, oggi è il 2 gennaio, abbiate ancora pazienza, borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Parla Carmenina, caro mondo, ragno tonno, quando sono gli occhi tra le spinte, scende in fondo. Carmenina, bella, l'amore è malattia, io me ne adunai in lontani tia. Allora, ci sono sviluppi sulla notizia di Palermo, la follia, abbiamo detto, di un soggetto che la notte di Capodanno se n'è andato in giro sparando colpi con quella che a tutta l'apparenza era un'arma da fuoco, una pistola. Le immagini, basta andare online, si vedono chiaramente, le ha riprese un operatore del TG3. E allora, la polizia indaga, la questura di Palermo indaga, ha acquisito le immagini e sono in corso indagini. Il fatto è avvenuto non lontano dal teatro Politeama, dove era in corso il concerto di Luca Carboni e Morgan. Il soggetto in questione stava usando, dicono gli inquirenti, verosimilmente una scacciacani, una pistola scacciacani. Andava in giro con giacca rossa e papillon e appunto ha sparato diversi colpi in aria, raggiungendo poi infine un gruppo di ragazzi e ragazze che sono andati via tranquillamente ridendo e scherzando. La follia di Palermo, hanno scritto giustamente secondo me molte agenzie online, molti siti parlando di questo episodio. 800 24 00 24. Allora andiamo con Franco che ci chiama da Milano. Buonasera. Sì, ciao, buonasera. Ciao. Io sono un tassista di Milano e volevo riprendere il discorso per quei tassisti disonesti. Che... Sì, la notizia, lo dico solo in due secondi, è che nella notte di Capodanno a Roma qualcuno ha denunciato il fatto che per compiere un tragitto nei dintorni di Via Nazionale veniva chiesta una tariffa di 20 euro, una tariffa fissa, anziché il normale tassametro. Ho intervistato un tassista della CGIL che parlava di truffatori all'azione. E questa era la notizia. Perfetto. No, quello che tu dicevi, che dice il controllo deve partire da voi. Sì, allora, a parte che se io sono in coda, il collega davanti carico, poi come faccio a sapere se non questo... puoi saperlo, questo è... esatto, però ci sarà un modo per poter... è un modo semplicissimo, ecco. Guarda, noi siamo a Milano siamo in 5.000, ci si fa fare una ricevuta, dalla ricevuta se il cliente pensa di essere stato fregato si fa denuncia alle auto pubbliche e credimi, a Milano le auto pubbliche funzionano, viene, non dico che ti tolgono la licenza, però vieni sospeso 5 giorni, 6 giorni. Cioè, fammi capire, se io vengo, tra virgolette, truffato, e invece di rivolgermi non all'autorità, nel senso alla polizia, ma mi rivolgo ad altri tassisti in qualche modo. No, ma altri tassisti non puoi. Ti fai fare una ricevuta. Mi faccio fare la ricevuta, però poi cos'è che... tutti i tassisti sono obbligati a... In cosa consiste il vostro intervento, diciamo, il fatto che entrate in azione con una sospensione? Noi abbiamo un ufficio auto pubbliche e ovviamente si fa carico delle lamentele della clientela. Perfetto. Bisogna avere una ricevuta, perché è chiaro che non è che puoi, e credi, però, scusa, a Milano funziona benissimo questo. Poi Milano adesso sembra una banalità, ma funziona tutto un pochino meglio forse che a Roma, non lo so. Ora, no adesso è una battuta, siamo di Milano entrambi, quindi sennò poi i romani polemica. Ci saltano alla giugulare qua, però no. Io quello che dicevo al sindacalista era questo: possibile che da parte vostra non possa in qualche modo partire un'indagine interna, un cercare di buttare l'occhio, perché alla fine voi che non sai qual è il collega che fa un po' il furbo, vi conoscete tra di voi, no? ma è chiaro che ci conosciamo, però ti ripeto, noi facciamo capo all'ufficio pubblico, sì, pubbliche autobus. Tu ti fai fare una ricevuta e dici, guarda, il tassista XE mi ha chiesto per questo tragitto tot, credimi, da noi vengono puniti, vengono sanzionati. Quindi credi, ma capita, è capitato recentemente che qualcuno è stato sanzionato per questo? Penso di no, però so. Allora vedi, però, certo, forse come dissuasore può funzionare questa cosa. No, funziona, credimi. Sì. È chiaro che poi nessuno si fa fare la ricevuta, nessuno va a denunciare. Non però, è un meccanismo che funzioni molto. Ma molto, questo funziona più che bene. E credimi, non è per difendere la categoria, sì, ma a Milano siamo più di 5.000 tassisti. E credimi, la maggior parte di noi sono persone oneste che fanno il proprio lavoro onestamente, bla bla bla. È chiaro che su 5.000 e passa persone, vuoi che non ci sia il furbetto? C'è. Però questo non deve far passare come, no, tutti. Va bene, Marco, Franco, ma il mio era solo un invito a dire, la segnalazione da parte vostra del truffatore, e questo può essere una cosa, però mi dite che non è possibile. O può essere... No, non è possibile, sì, devo avere poi un documento che dimostri che il tassista è stato disonesto. E qual è questo piccolo documento? Va bene, no, ma abbiamo capito, Franco, non è semplice fare questa cosa. C'è la ricevuta, come tu dici, rivolgetevi al posto pubblico e fate la vostra denuncia. Però un'altra cosa che io ho detto al sindacalista, visto che tu ti dimostri dialogante, giustamente, e collaborativo da questo punto di vista, perché non fate voi delle iniziative tipo, che ne so, sconti per le anziane donnine che vanno a fare la spesa ogni tanto, delle iniziative così per diventare più alla portata di tutti? Credi. E prevenire delle critiche che ci sono al servizio. Come ti chiami? Chiamo? Ma che c'entra come mi chiamo? No, Franco? Il nome. Alex. Se ascolti Radio 24 dovresti saperlo, se no. No, va bene. Di solito ascolta la Zanzara. Ascolta, il problema è che noi sconti, e lo vedo coi colleghi, alle vecchiette, ai ragazzi giovani. No, non dire, li facciamo sempre. Non come iniziative di promozione. Può capitare che alla signora che ti sta simpatica gli fai un piccolo sconto, però io non so prima che posso avere una promozione, uno sconto, una iniziativa da parte vostra. Dipendiamo dal comune, il comune che ci imposta la tariffa. Decidetelo col comune, fatelo insieme, mica ve lo vieta nessuno di fare degli sconti. Non credo che qualcuno vi possa vietare di fare degli sconti, però siamo in Italia, potrebbe anche darsi. Franco, io ve l'ho buttata lì, poi fate come vi pare. Grazie per la puntualizzazione, giusta peraltro, sul fatto che si può andare a fare denuncia con la ricevuta del tratto pagato più di quello che era il prezzo del tassametro. Bisogna però anche rendersi conto di essere stati truffati. Tante volte la truffa avviene all'insaputa del truffato. Giovanni da Salerno, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. Giovanni da Salerno, 50 anni passati, sono un giovane vecchio. Vecchio non direi, dai, sei un adulto sono un normale. Un giovane vecchio che ne ha viste tante di cotte e di crude. Quindi io volevo intervenire sul reddito di cittadinanza e sono abbastanza favorevole, perché no? Sì. Perché non dare la possibilità a chi ha non avuto fortuna nella vita? Se viviamo in un paese democratico significa che tutti hanno i diritti e i doveri. Ma Giovanni, giusto? Tu per esempio ce l'hai un lavoro? Io ce l'ho un lavoro, lavoro in nero. Lavoro in nero. Tipo, lo Stato non fa da garante. Tipo che lavoro fai? Che area sei? Allora, ascoltami, io sono un istruttore, sono un educatore. Sì. Lavoro nel mondo dello sport. Nel mondo dello sport. Calcio, lavoro con i bambini. Sì. E mi guadagno un po' la vita facendo questo. Vabbè. Poi, tra l'altro, faccio anche un po' da traghettatore, nel senso che uso il mio pulmino e porto servizio i bambini taxi. E insomma mi do da fare, faccio tutto da in nero, però Giovanni tutto rigorosamente tutto in nero. Non mi metto, guarda, io non ho paura di dire queste cose, no ma per carità, assolutamente. Se in Italia ci sono non so quanti miliardi di evasione, qualcuno ci sarà, ci siamo dentro, ma tutti, guarda, è lo Stato che ti mette in queste condizioni di fare. Non si può dire sempre che è colpa dello Stato, perché se no in alcuni casi guarda, allora ascoltami. Sì. Tutti paghiamo le tasse. Io nonostante ciò pago le tasse. Ancora oggi pago le tasse. Quindi pago c'è una parte in nero e una parte non in nero. Patente, certo. ho i diritti da pagare su una proprietà che mi è venuta tramite famiglia, eccetera, eccetera. Però lo Stato, quando ti bussa alla porta, chiede... Allora, l'articolo 1 della Costituzione italiana, che cosa dice? La Repubblica, l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e sulla famiglia. Andrebbe rivisto questo articolo, perché oggi il lavoro che non c'è più strutturalmente andrebbe cambiato. Tutti saltano questo articolo, sì. Tutti lo saltano, tutti. Non c'è stato un politico... Non è che lo saltano, è che non, vabbè, ma non è applicato. Si nella realtà. Non allora, applicato. Nessuno si sofferma, sì. E diciamo, mette i puntini sulle i. Cioè ne parla e ne discute. Tutti fanno demagogia, ma con parole... però ha fatti niente. Allora diamo la possibilità, Giovanni, ti do un consiglio, coloro. Prova a chiedere al tuo datore di lavoro di metterti in regola, almeno uno dei lavori che fai, che ne so, il tassista, dove c'è anche una responsabilità, almeno quello, non lo so, uno, provaci, dai, prova, perché deve partire un po' anche da ognuno di noi, volere, diciamo, cambiare, no, le cose, o volerle migliorare un pochino, altrimenti è sempre colpa di qualcun altro, no, Giovanni, provaci, anche perché poi se no i contributi chi te li paga? Arrivi alla fine e non ti rimane niente in mano per la pensione. Ti posso chiedere una cosa? Pensa a quanti giovani vogliono fare il lavoro che fai tu. Sì. Quante domande, quante, diciamo, colloqui oppure devono superare per fare una cosa? Al di là della bravura ci va anche un po' di fortuna. Assolutamente sì, assolutamente. No, guarda, ti dico di più, ci vuole tantissimo... non diciamo una parola perché è inutile, ma avete capito, quella roba lì ci vuole sempre nella vita, ci vuole, e in particolare per fare un lavoro ambito o amato, dove non ci sono tanti posti belli, amati, ambiti, ci sono però altri posti normali di lavoro che uno può fare, può non fare, eccetera eccetera. Io ho detto semplicemente che ti invito a prendere a cuore la tua situazione per primo e dire: ok, pagatemi i contributi per questo lavoro che faccio, sennò poi tra 20 anni, tu ne hai 50, tra 15 anni o 20 anni, quando cercherai di andare in pensione, non avrai un tubo, capito? Quindi tocca anche a te, Giovanni, prendere in mano questa cosa, forse. Dopodiché poi ci sono mille motivi, mille cose di cui potremmo stare qui a parlare e a dire che è colpa dello Stato che vi mette in difficoltà. Giovanni, ti ho annichilito? Sei ancora lì? Ti ascolto anche perché il mio appello è rivolto a tutti, sì, quelli che si trovano nella mia condizione. Assolutamente. Ma scusa, toglimi una curiosità, tu fai l'allenatore di calcio, capito bene? No, sì, io sono allenatore di calcio. Ma cos'è, una squadra amatoriale? Sì, una squadra amatoriale, e poi tra l'altro abbiamo anche una scuola calcio soprattutto per rivolta a bambini di un'età che va dai 5 ai 11 anni. E prendi per questo un piccolo stipendio? Prendo un contributo, un contributo che io uso per me stesso, certo. Assolutamente, per sopravvivere, attenzione. Assolutamente, no, ma scherzi, me lo sono sempre chiesto se chi fa questo tipo di attività poi ha, perché sono attività importanti anche per i ragazzi, se ha uno stipendio oppure no, in questo caso c'è un rimborso, un contributo. Grazie Giovanni. In bocca al lupo e buon anno anche a te. Adesso parliamo un po' dell'aria che si respira a Milano. Looking at life through the eyes of a tire hub. Eating seeds is a pastime. Non è che ci sia molto da dire sull'aria che si respira a Milano, ahimè, perché non è una bell'aria. Allora, le centraline che misurano le cose di smog, i livelli di smog, insomma, hanno rivelato che già al 1 gennaio c'erano livelli 3 volte superiori la media e quello che è, insomma, il consentito. E quindi l'anno inizia male per Milano, ma inizia male in molte città. A Torino sono fermi gli Euro 3 diesel, a Roma ci sono limitazioni del traffico, insomma, in tutte le città, soprattutto del nord, ma un po' in tutta Italia, si parte con il nuovo anno con i vecchi problemi da questo punto di vista. È preoccupante, è veramente preoccupante, perché questa è una delle cose più importanti che abbiamo, l'aria che respiriamo, l'aria che respiriamo. È con noi l'assessore all'ambiente di Milano, Marco Granelli. Buon anno. Buon anno e buonasera. Allora, io le racconto questo piccolo episodio. Due giorni fa sono andato a lavare la macchina fuori da Milano, in un'altra città, a Pisa, la mia città di origine. E quello che mi lava la macchina mi ha detto: ma lei dove abita? In un vicino a un'industria. Poi mi fa: lei secondo me abita o a Milano o a Alessandria, non so perché Alessandria, perché ci sono 30 anni che faccio questo lavoro e soltanto in chi veniva da questi posti ho visto delle macchine ridotte così, cioè la carrozzeria dell'automobile era tutta butterata e non era più liscia, è lo smog. Questa è l'aria che respiriamo a Milano. Certo, immaginiamo i nostri polmoni. Per questo noi stiamo facendo delle misure che devono servire a migliorare la qualità dell'aria. Del resto, devo dire, abbiamo dei dati che sono la metà rispetto a 15 anni fa. Questo è vero, 2016, lo dice anche l'ARPA, le cose sono leggermente migliori. Dico subito un'altra piccola cosa, per disinnescare in qualche modo, anche lo dico scherzando, la posizione anche difesa d'ufficio di una città come Milano da parte dell'assessore. Milano è una città che ha fatto molto in questi anni, giunta Moratti, poi Pisapia, area C, bike sharing, si cerca in tutti i modi di migliorare, quindi questo va dato atto. E poi la qualità dell'aria è anche leggermente migliorata. Resta che, volendo sintetizzare brutalmente, fa ancora abbastanza schifo. Detto questo, basta dire che 70 giorni sopra il limite, certo non sono i 110 di 15 anni fa, ma sono tanti. Per quello noi stiamo cercando di lavorare su due punti, cercando l'obiettivo di gasolio zero per i veicoli, e quindi già noi in area C gli Euro 3 diesel non possono più entrare. Da febbraio non potranno più entrare neanche gli Euro 4 diesel immatricolati persone, poi da ottobre i merci. E poi stiamo facendo questo quindi progetto. Quindi progressivamente in un anno non potranno più entrare, scusimi, mi puoi ripetere esattamente che tipo di veicoli diesel? Diciamo, cioè, ci saranno dei veicoli diesel che potranno entrare? Mettiamolo al contrario. Chi diciamo potrà entrare? Dall'Euro 5 in su compreso si può circolare tranquillamente, perché Euro 5 ed Euro 6 diesel non ha particolare. Sono auto immatricolate mediamente in che anni, tanto per capire? Sono dal 2010 in poi. Quindi se io ho un diesel immatricolato prima del 2010, molto probabilmente ho una macchina che inquina troppo. Incomincio ad avere dei problemi, certo. Certo, noi oggi abbiamo il blocco nel centro storico degli Euro 3 diesel già operativo, e incominceremo a bloccare anche gli Euro 4 nel centro storico, perché è la zona più servita dai mezzi pubblici. Sì. E poi da ottobre invece lavoreremo per fare anche una rete di telecamere che tutelerà tutto il territorio cittadino, e incominceremo da ottobre, con l'inverno prossimo, a dire che gli Euro 3 diesel in tutta la città non potranno entrare durante l'inverno nei giorni feriali, dalle 7:30 alle 7:30 di sera. Che, ecco, questo è un provvedimento che vuole incominciare sugli Euro 3 e poi progressivamente andiamo sugli Euro 4, per fare in modo che Milano col 2020 non abbia più veicoli diesel Euro 3 ed Euro 4, che sono quelli più inquinanti. Consideriamo che sono il 10% dei veicoli nella nostra città metropolitana, però, scusi, ma inquinano per un terzo. Le faccio una domanda. Allora, io capisco la prudenza, anche il fatto di dover mettere in atto delle limitazioni alle automobili che non possono scattare da un giorno all'altro, bisogna dare il tempo a tutti di organizzarsi. Detto questo, però, dato proprio che Milano è una città a cui credo anche altre parti d'Italia guardano con attenzione, perché è un laboratorio, perché è più avanti di altre città, forse perché c'è più inquinamento, forse perché è l'unica città in Italia che ha un'area C nella quale non si può accedere all'interno proprio per limitare l'inquinamento e anche il traffico all'interno delle città. Tutto bellissimo, però se non ricordo male nel 2011 in questa città si è votato un referendum che prevedeva l'estensione di questa misura di non congestion charge, eccetera, di area C. È per allora, quello che noi che fine ha fatto questa cosa? Non si può avere un po' più di coraggio e provare a fare delle misure un po' più draconiane? Certo, noi appunto per questo da ottobre saremo la prima città d'Italia che avrà una rete di telecamere, saranno 150 lungo tutto il perimetro della città, che regoleranno l'ingresso dei mezzi inquinanti. Siamo la prima città d'Italia, noi abbiamo deliberato questo investimento, sono 5 milioni e mezzo di euro che metteremo in atto nel corso di questi mesi, in modo che dal prossimo inverno ci sarà questo sistema di controllo per limitare proprio i mezzi più inquinanti. Che poi prego. No, dico, e poi dobbiamo continuare anche sul fronte caldaie, perché il contrasto al gasolio va sui mezzi, ma va anche sulle caldaie. Ecco, per questo diciamo, noi abbiamo fatto 30 un altro milioni punto. Di investimenti. 30 esatto. milioni di investimenti per convertire che cosa? Le caldaie pubbliche? Per convertire le caldaie dei quartieri popolari. Noi abbiamo 30.000 alloggi popolari. Sì. Nel corso del 2017 toglieremo le caldaie a gasolio, per ecco. cui... questo è un altro contributo importante. Questo è importante, quindi un investimento anche importante. Però c'è un'altra questione, per esempio proprio quella della temperatura dei riscaldamenti. In quasi tutti i condomini c'è un riscaldamento a palla, nei negozi c'è un riscaldamento a super palla. In alcune città del Veneto dei sindaci sono corsi di fronte all'emergenza e hanno multato i negozi che tenevano le porte aperte, perché se d'inverno tieni le porte aperte è ovvio che dentro poi devi sparare un riscaldamento a 1000. Non voglio prendermela con i commercianti assolutamente, ma chi controlla questa questione delle temperature nei condomini, nei negozi? C'è qualcuno che lo controlla, per esempio a Milano? Noi abbiamo un'unità della polizia locale, dei vigili, insieme a degli esperti di ARPA, cioè di AMAT, che è il nostro ente AMAT che opera su questo fronte. Abbiamo delle unità che girano per fare questi controlli. Quanti sono, tanto per avere un'idea? Come sono unità? Una ventina di persone, sono 20 agenti. Non è molto, non è molto. Io ringrazio come cittadino milanese, però in effetti essendo non so quanti milioni siamo a Milano è un po' un problema. Certo. Però sa, noi cominciamo e stiamo già facendo delle ordinanze ai condomini che non sono in regola. Nel mille proroghe è stato prorogato, penso, spero per l'ultima volta, il termine perché i condomini si devono mettere in regola sulle valvole. Noi faremo proprio, abbiamo uno sportello energia che aiuta i condomini, noi facciamo le verifiche, facciamo le diffide al condominio e poi diciamo se vuoi puoi rivolgerti, ti spieghiamo come puoi fare ad esempio ad accedere ai contributi statali del governo per cambiare la caldaia, per fare il cappotto, per meglio coibentare. Assolutamente. E sono contributi che noi come Milano abbiamo, ad esempio abbiamo dato 1 milione di euro di contributi a quegli operatori commerciali che ad esempio hanno il camioncino, magari hanno il camioncino coibentato che è a gasolio e quindi costa 60.000 euro e quindi capiamo che cambiarlo ha un costo significativo, noi diamo i contributi per mettere il filtro antiparticolato. Abbiamo messo 1 milione di euro nell'autunno scorso, abbiamo consumato totalmente, sono stati 300 gli operatori commerciali che hanno usufruito di questo contributo per magari mettere il filtro. Rilanciatelo, rilanciatelo questo capitolo. Un'ultima domanda che le voglio fare, Assessore Granelli, è questa. L'unico modo per far digerire agli automobilisti le multe e quindi per far rispettare anche il codice della strada e anche limitare gli accessi alle zone dove non si deve andare con l'auto per non inquinare è quella clausola per cui credo che sia una legge da qualche parte dell'ordinamento italiano, per cui bisogna investire i soldi nel miglioramento delle strade, nel miglioramento appunto dell'efficienza delle strade, eccetera, eccetera. Che garanzia ha oggi il cittadino, per esempio milanese, che questo avviene veramente? Noi abbiamo ogni anno una delibera dopo il bilancio dove dettagliamo come utilizziamo i soldi delle multe. Noi mettiamo molto per il trasporto pubblico e per le strade, più del 50% del ricavato delle multe viene usato per questo. Noi stiamo facendo investimenti, stiamo costruendo una linea metropolitana, sono 2 miliardi di euro investiti per questo, per fare una nuova linea metropolitana e per fare il prolungamento della linea metropolitana che andrà a Monza, proprio perché mettendo un servizio pubblico efficiente, metropolitane, si riesce a convincere le persone a non usare l'auto. E devo dire che a Milano è più facile far passare questo messaggio perché i mezzi pubblici ci sono e provo chiunque a dire il contrario. In altre città non è così. Bisogna insistere perché abbiamo ancora, diciamo, delle persone che vengono da fuori Milano. Sì. Solo un terzo usa i mezzi pubblici, certo, perché dobbiamo metterne di più, ma anche perché c'è un po' l'abitudine e per questo, ad esempio, noi abbiamo aumentato la sosta in città, cioè per chi viene da fuori che vuole arrivare in centro non col mezzo pubblico, viene con l'auto, alla sosta che costa di più, perché chiaramente creando un disagio alla comunità deve in qualche modo. Grazie assessore, grazie, buon anno naturalmente, buon assessore anno, all'ambiente e Comune di Milano. Era giusto fare un punto su questa città che ha lo smog più alto che altre e soprattutto è una città che sperimenta misure, ma giudicate voi. 800 24 00 24, su questo magari domani potrete intervenire. Adesso per chiudere forse almeno un'ascoltatrice, Graziella da Ravenna, buonasera. Buonasera. Prego. Io volevo semplicemente esprimere la mia opinione, sì, in merito al reddito di cittadinanza. Sì. Io sono totalmente contraria, ecco, in merito al fatto che la gente deve incominciare, l'italiano medio deve incominciare a lavorare di più. Ma noi dove già, però, se i posti di lavoro non ci sono, Graziella? I posti di lavoro ci sono, esistono, ma gli italiani non vogliono fare i lavori che presentano delle probabilmente delle difficoltà in termini di orari, non vogliono lavorare. Graziella, sabato, questa teoria è già sentita, è interessante, la approfondiremo domani perché adesso devo chiudere, c'è il giornale radio, vi ringrazio tutti, buona serata, ciao, a domani, ciao da Alessio Maurizio.